as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e Rose, prima puntata del 2023. Io sono Ottaviano Gianplacido, vi parlo da Radio Città Fucico 103.1. Nuovo anno, il format è sempre quello. Continuiamo a parlare di lavoro, continuiamo a parlare anche di altri argomenti. Siamo un po' preoccupati per quello che è successo in Brasile, chiaramente. Speriamo che le cose si risolvino. Noi siamo a fianco dei lavoratori brasiliani, abbiamo molti compagni, tramite i meccanici, soprattutto all'interno del partito dei lavoratori brasiliano. Questo insomma ci fa stare, diciamo, molto molto preoccupati. Oggi, così come vi avevo detto, affrontiamo di nuovo la questione del congresso, perché nei prossimi giorni a Bologna ci sarà il congresso provinciale della CGIL. Abbiamo detto nelle puntate passate che la CGIL ogni 4 anni va al congresso, prima vengono fatte le assemblee di base in tutti i luoghi di lavoro, poi vengono fatte i congressi di categoria, una volta finiti i congressi di categoria provinciali, viene fatto il congresso confederale provinciale. A Bologna ci saranno questi giorni il congresso della CGIL. Abbiamo intervistato a dicembre Samuele Lodi, segretario della FIOM regionale di Bologna, al congresso che c'è stato dei metalmeccanici a Bologna, che ci ha spiegato i contenuti del documento 1, cosiddetto documento a prima firma di Maurizio Landini, documento di maggioranza. Paolo Brini, nel mese di dicembre, in trasmissione aveva parlato del documento 2, quel documento di opposizione. Chiaramente io ho aderito al documento 2, chi mi conosce, chi segue la trasmissione sa come la penso. E Samuele Lodi parlerà, insomma, dei contenuti, spiegherà in breve quali sono le cose più importanti del documento 1. Lui chiaramente è firmatario del documento 1. Parleremo anche un po' di deindustrializzazione con lui, visto che lui è di Metalmeccanici, un argomento che ci interessa parecchio. E parleremo anche della questione della transizione ecologica e di quello che ci aspetta nel 2023. Ora, adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo di Drake, Future, e poi sentiremo un'intervista a Samuele Lodi, poi un bellissimo pezzo stupendo, che non mancate di ascoltarlo, veramente molto bello, e poi conclusioni. A dopo. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right down while I catch a play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh. Too many convicts that enrolled me to play in this shit. Ooh, I'm proud of nonsense, get old, so I'm spreading this bitch. Ooh, they had the candlelight lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas made it, we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet. Man, I ain't gonna eat front. This shit sitting in the middle of the hood. I've been serving fiends, get my racks. About to buy me some studio time, make me a song. What? Yeah. For real? I'm about to go big. You can't spit. For real? I got bars, fool. Man, you need a hard video. If I do the video, you got to direct it. We got the vision. Don't gas me you up. You're going to be bigger than Lil X. You see how his videos be popping, nigga? 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we ordered the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news. I put the puss on the shirt. After I murdered it, make me go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger. Hey! That was good. I just need one more. Right. No, I need one more. Yeah, no, no, one more, one more. No, one more. Trust me, please. One more, I swear, just one more. X. You always say X. Exactly. I think we need to change the lens. Yeah, change it up. We need a 35 mil. 35 mil, please. What do you want to do? Going again? Yeah, one more time. You're the boss. You're the boss. All right, guys, last looks, we're going again. Roll camera. Playback. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger. Allora, siamo qui al congresso della FIOM, congresso della CGIL categoria FIOM. Siamo qui con Samuele Lodi, segretario della FIOM dell'Emilia Romagna. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo spiegato le ragioni del documento 2, le radici del sindacato. Adesso Samuele Lodi, è stato gentilissimo, ci spiegherà invece le ragioni del documento numero 1, il documento di maggioranza, prima firma Maurizio Landini. Ci spiegherà perché è importante che questo congresso si svolgerà prevalentemente su quello che insomma sarà importante, tutta la discussione che c'è all'interno chiaramente della maggioranza, ed è corretto che i lavoratori sappiano insomma anche la posizione del documento 1. Spiegaci un po' il documento e se c'è stato qualche quello che sta accadendo anche oggi rispetto al documento. Grazie Gianplacido e un saluto a tutti e a tutte. Ma intanto inizio dicendo perché questa è una domanda, a volte una perplessità che ci arriva dai lavoratori nel corso delle assemblee congressuali, che molte volte non capiscono come a fronte del congresso della CGIL vengono presentati due documenti diversi. Io penso che questo è un nostro valore democratico che in qualche maniera dobbiamo anche preservare e difendere. Quindi è giusto che in questo appuntamento ci si confronti, apro una parentesi e la chiudo subito, come abbiamo fatto per esempio qui in Emilia Romagna, quindi in maniera assolutamente corretta e con un rispetto reciproco, ci si confronti su diverse idee, se ci sono diverse idee, e quindi su questo poi dopo si chieda alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati iscritti di esprimersi. Detto questo, e quindi del preservare questa modalità, io penso che questa volta più che mai ne avevamo e ne abbiamo tanta necessità. Il documento in cui io mi riconosco, quindi il documento della presunta maggioranza, è un documento che può far vivere veramente il congresso, perché affronta questioni importanti e che a partire dai nostri delegati vivono nei propri luoghi di lavoro giorno dopo giorno, perché quando parliamo di salario, in particolare di salvaguardia del potere d'acquisto dei nostri salari, quando parliamo di precarietà, quando parliamo di salute e sicurezza, quando parliamo di stato sociale ed eventualmente anche di intervento pubblico nell'economia, parliamo di questioni che sono per noi dirimenti e che soprattutto, ripeto, nei luoghi di lavoro trattiamo quotidianamente. Quindi questo è il primo elemento che pongo, cioè il fatto che questa volta siamo riusciti, a mio giudizio, a far vivere un congresso che sia, diciamo così, calato sulle esigenze e sui bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopodiché, col mio parere personale, è che, confrontandomi anche nel corso di assemblee che ho fatto anch'io con anche i rappresentanti del secondo documento, io sinceramente non vedo, rispetto a quello che è l'analisi, grosse differenze tra i due documenti. Io penso che, e questo ripeto riprendendo quello che dicevo inizialmente, è assolutamente legittimo, là dove c'è la diversità è nel modo in cui dopo la nostra progettualità noi la mettiamo in campo. Io penso che da questo punto di vista chiaramente noi dobbiamo parlare dello strumento della mobilitazione e come agiamo la mobilitazione e gli stati di agitazione nelle diverse modalità. È evidente come noi avremo bisogno nel nostro paese di una mobilitazione diffusa, prolungata e profonda. Questo è evidente perché le esigenze da tutti i punti di vista e anche dal punto di vista dei nostri interlocutori, che sono da un lato le imprese e dall'altro la politica e il governo, noi avremo bisogno veramente di mettere in campo una mobilitazione diffusa e significativa. Dopodiché il tema è legato al fatto come tu metti in campo la mobilitazione e per raggiungere quale obiettivo. Io penso che oggi più che mai la sfida è veramente molto complicata. Purtroppo ormai da troppi anni non ha il lavoro, i lavoratori quindi non hanno più una loro rappresentanza politica in Parlamento e quindi in qualche maniera il sindacato è lasciato da solo nel rivendicare quelle che sono le necessità per i lavoratori e quindi il nostro obiettivo è quello di allargare il più possibile quella che è la platea di coloro che si devono mobilitare. È evidente che questo è un esercizio difficile perché non stiamo parlando di una difficoltà solo in ambito CGIL, che già non sarebbe, insomma, che già sarebbe è già un compito difficile, ma anche e soprattutto nel rapporto con CGIL e UIL. Noi dobbiamo darci però questo obiettivo, perché io ritengo che se noi andassimo avanti come mobilitazioni, anche come singola e come sola diciamo così categoria dei metalmeccanici della CGIL, sicuramente avremo la ragione dal nostro punto di vista, dalla nostra parte, ma con scarsi risultati portati a casa e già lo abbiamo visto anche con lo sciopero generale CGIL e UIL del passato dell'anno scorso, del dicembre del 2021. Noi abbiamo bisogno, e questo è un esercizio complicato anche perché i due anni di pandemia non ci hanno aiutato nel rapporto con i lavoratori. In molte categorie si è persa l'abitudine anche a mettere in campo e a fare le assemblee in presenza con i lavoratori. Questo la FIOM non è mai venuta meno, la FIOM in questo. Però ecco, la realtà nei luoghi di lavoro non è ovunque come nei luoghi di lavoro metalmeccanici. Quindi questo porta via tempo, porta via fatica, però diciamo così è la nostra unica diciamo così strada, perché altrimenti, ripeto, noi potremmo mettere in campo anche delle iniziative di sciopero che tra virgolette soddisfano il nostro cuore, le nostre idee, ma non porterebbero a casa nessun risultato. Quindi questo porta via tempo, soprattutto quando parliamo con gli interlocutori di CISL e UIL. E poi arriva un momento nel quale poi dopo noi come organizzazione dobbiamo decidere, tant'è che abbiamo deciso per esempio con la UIL di fare lo sciopero e in Emilia Romagna lo faremo di 8 ore tutte le categorie questo venerdì 16 dicembre, perché arriva poi un momento nel quale devi prendere la decisione e mettere in campo lo sciopero. Invece per quanto riguarda la deindustrializzazione come FIOM, un mese fa nel Comitato Centrale, abbiamo anche parlato in radio, De Palma ha gridato un grido d'aiuto, nel senso che 2023 si prevede per noi metalmeccanici un anno terribile. Su questo la FIOM ha qualche iniziativa, qualcosa da aggiungere rispetto a tutte le tematiche, perché il 16 chiaramente è contro il governo. Certo. La tematica fiscale la fa da padrone, ma certo, c'è la questione deindustrializzazione, certo, che grida vendetta. No, la questione della deindustrializzazione nel nostro paese è una questione molto, molto grave, molto sentita. Ora noi potremmo qui in ambito emiliano-romagnolo potremmo anche in qualche maniera ritenerci tutelati dal fatto che in Emilia-Romagna un processo di industrializzazione fondamentalmente non è presente, ma noi dobbiamo compiere lo sforzo di avere un punto di vista generale, e oggettivamente nel nostro paese questo pericolo c'è, anzi in vaste aree del Mezzogiorno questa è una realtà ormai da anni. E su questo fondamentalmente la FIOM insiste su quello che in altri paesi in Europa avviene, e quindi il fatto che i governi, perché in realtà non c'è una responsabilità solo di questo governo che si è appena insediato, i governi in Italia si dovrebbero porre la questione della strategia industriale e della strategia in questa fase qui anche energetica, cioè definire nel confronto insieme con le organizzazioni sindacali quali sono gli ambiti in cui investire nel nostro paese, perché è evidente come qui non stiamo parlando della necessità o di una stagione di nazionalizzazione delle nostre imprese, però il governo deve fare il proprio mestiere, come avviene tra l'altro, ripeto, in Germania, come avviene in Francia, cioè andare a definire quali sono gli ambiti in cui investire, e dall'altro lato però provare anche a mettere fine a quelle dinamiche che in particolare le multinazionali mettono in campo ormai da anni nel nostro paese. Quindi vengono qui nel nostro paese, investono, fanno acquisizioni utilizzando anche risorse pubbliche per le riorganizzazioni, per le ristrutturazioni, e nel momento in cui, non dico che cominciano a registrare delle perdite, ma semplicemente nel momento in cui non hanno, diciamo così, delle rendite che sono secondo quelle che erano i propri programmi, ecco che decidono di chiudere e di delocalizzare. Ecco, anche su questo noi abbiamo bisogno di interventi legislativi importanti, perché è evidente come noi dal nostro punto di vista mettiamo in campo le mobilitazioni, mettiamo in campo le grandi vertenze, come è stato fatto qui per esempio in Emilia-Romagna pochi mesi fa con la vicenda della saga Coffee, però è evidente che da soli questo obiettivo è molto molto più complicato. Qui abbiamo veramente bisogno che il governo e il Parlamento legiferi. Una legge su contro le delocalizzazioni. Esatto, esattamente. Nel documento 2 è presente la questione della transizione ecologica, è un argomento importante, anche oggi Bulgarelli l'ha ribadito nel suo discorso. Tu vieni da un territorio, da una fabbrica che oggi sta soffrendo per quanto riguarda il motore diesel, che scomparirà. Su questo come siamo messi? Anche su questo è una delle grosse carenze dal punto di vista della politica, nel senso che anche rispetto a quella che è la transizione ecologica, la transizione ambientale, noi abbiamo bisogno di un interlocutore politico, di un governo che metta in campo delle iniziative che non possono essere solo ed esclusivamente la convocazione molte volte sterile al tavolo di crisi al MISE. Anche perché qui siamo in una situazione nella quale ormai da troppi anni al MISE vengono convocati solo i tavoli di crisi, che è necessario che continui ad avvenire, ma al MISE dovrebbe essere anche il ministero nel quale si vanno a definire e ci si va a confrontare, si vanno a definire quelle che sono le linee strategiche di sviluppo e di rilancio delle nostre imprese, ed è evidente che questo però tu lo fai solo se hai la disponibilità nel rapporto con le organizzazioni sindacali di confrontarti. Quindi anche su questo noi diciamo che abbiamo bisogno di strumenti per la transizione, perché La conversione di uno stabilimento non può avvenire dal 31 di dicembre al 1 gennaio dell'anno successivo. Il percorso è lungo, quindi su questo abbiamo bisogno assolutamente di ammortizzatori sociali, di nuovi ammortizzatori sociali che tengano insieme dall'altro la tutela occupazionale dei lavoratori, l'elemento retributivo che è fondamentale, ma anche e soprattutto il tema della formazione che è sempre più fondamentale in questi processi. Dunque, meno tavoli, più fatti concreti per il 2023, è quello che chiedete al governo e a tutti gli attori in causa. Ma i tavoli vanno anche bene, però è evidente che questi tavoli devono produrre qualcosa di concreto. Ok, ti ringrazio. Grazie e ci vediamo al regionale. Ci vediamo al regionale. Ciao, ciao. Ciao. Allora, avete ascoltato un pezzo bellissimo, secondo me, Alabama Shakes di This Feeling, un pezzo davvero stupendo. La prima canzone che era quella di Drake, Future, per chi si fosse perso l'introduzione. Ebbene, avete anche ascoltato, se siete stati collegati, l'intervista a Samuele Lodi. Ci ha spiegato, insomma, le cose principali del documento 1, e anche con lui abbiamo parlato di questioni più nostre, di metalmeccanici, di industrializzazioni, di quello che la FIOM dovrà fare nel 2023, la questione transizione ecologica che ci colpirà tantissimo noi metalmeccanici. Purtroppo questo governo non è in grado di affrontarlo e ne pagheremo molto probabilmente le conseguenze se non reagiremo in maniera seria e dura. Ora, io non vorrei dilungarmi troppo le conclusioni. Ci sarà il congresso della CGIL in cui io parteciperò, farò delle interviste. Lodi penso che abbia detto tutto, le cose più importanti le ha spiegate. Chiaramente la sfida è molto molto dura, la situazione non è delle migliori, c'è bisogno di un programma. Devo dire la verità, sia il documento 1 che il documento 2, io ho fatto diversi congressi, sono entrambi dei documenti che non sono, insomma, non si parla del sesso degli angeli come spesso accade nei congressi, no? In molti congressi i documenti sono dei programmi politico-sindacali infiniti dove si parla di tutto. Entrambi i documenti sono molto molto specifici e si affrontano argomenti importanti, proprio, insomma, i classici, ne abbiamo già parlato, il salario al primo posto per entrambi. E dunque siamo molto fiduciosi. Se la CGIL riuscirà a portare a casa anche poche cose, alcune cose che ha presentato in questi congressi, veramente faremo dei passi avanti rispetto agli arretramenti che ci sono stati in questi anni, davvero notevoli. Il problema è che dobbiamo cambiare i rapporti di forza. Ci servono i rapporti di forza, ci servono i lavoratori con noi. E bisogna coinvolgere i lavoratori. E bisognerebbe, secondo il mio punto di vista, come sempre spiego nelle varie assemblee, cercare di essere il più possibile coerenti, perché non c'è nulla di peggio che perdere la fiducia ai lavoratori promettendo cose che poi non vengono realizzate, oppure non ci si prova nemmeno a realizzarle. Questo è un problema, ma a prescindere da quale documento. Questo vale per il documento 1 come per il documento 2, vale sempre nelle battaglie sindacali. I lavoratori non danno la fiducia così sempre, e ci metti pochissimo a perdere la fiducia dei lavoratori, i lavoratori si girano dall'altra parte. Ora, questo è il mio auspicio, che la CGIL esca da questo congresso più forte, ma soprattutto più decisa a portare avanti le cose. Ora però è d'obbligo parlare di un compagno che ci ha lasciato. Purtroppo abbiamo perso Alessandro Bernardi, che era un nostro anche amico, un compagno militante di Potere al Popolo, è sempre stato per vicino ai lavoratori, sempre. È stato per noi un punto di riferimento della sinistra di Bologna, ha rappresentato per molti veramente un punto di riferimento. Ecco, io spero che te la ti sia lieve, compagno. E chi ha compagni non muore mai, e tu ne hai tanti, e dunque per noi sei sempre vivo. Ciao Alessandro.